Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Gesù oggi compie un miracolo, il miracolo di scacciare da un uomo posseduto da uno spirito impuro e appunto questo spirito. E quest'uomo che cosa dice a Gesù? Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Ecco, vedete, anche per noi ci sembra un po' così, che Gesù sia venuto a rovinarci. Quante volte, quando una persona si incammina verso la meta giusta, quando inizia un cammino di conversione, la vita diventa più difficile, più complicata e tante cose non si possono più fare, tante parole non si possono più dire, tanti atteggiamenti non si possono più manifestare. Ecco, allora diciamo, ma perché mi sono incamminato in questa strada? Perché mi sono rovinato la vita? Che vuoi da me, Gesù? Perché sei venuto a rovinarmi? E abbiamo la tentazione di tornare indietro. Inoltre, ci scoraggiamo per le difficoltà che incontriamo nel cammino e ascoltiamo le voci menzognere che ci vengono appunto dal maligno, che ci dicono: ma non ce la farai mai, ma perché ti sei messo in questa strada? Tu non potrai mai diventare santo, tu non potrai mai avere successo. O anche per le cose ordinarie della vita, diciamo, per esempio, se devi affrontare un concorso, subito ti scoraggi e dici: ma che lo faccio a fare? Tanti posti sono già assegnati alle persone raccomandate. Oppure se devo fare una ricerca per una tesi, eccetera, magari dico: ma che me lo fa fare? Ma tanto è meglio copiare, tanto il merito nessuno lo vede, oggi non conta niente, contano solo le conoscenze. Oppure se voglio impegnarmi al lavoro, però poi dico: ma chi me lo fa fare? Tanto nessuno lo nota. Ecco, tutte queste parole ci scoraggiano, tutte queste sono tutte bugie che ci diciamo continuamente. E il Signore anche da noi oggi vuole togliere questo spirito impuro, tutte queste menzogne che stanno contaminando la nostra vita. Guardiamo oggi dentro di noi quali sono. Qual è questo spirito impuro che ci abita? In che cosa si manifesta questo spirito impuro? Forse in pensieri appunto di scoraggiamento, in pensieri di vendetta, in pensieri di concupiscenza, in pensieri di gola, di ingordigia, in pensieri di arrivismo, di competizione. Ognuno è animato da qualche spirito impuro. E allora anche da noi oggi Gesù vuole togliere questo spirito impuro e noi abbiamo un po' la tentazione di ribellarci, di dire: ma che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Sì, Gesù è venuto a rovinarci, a rovinare quella parte di noi che va rovinata, che va distrutta, appunto lo spirito impuro. E Gesù fa tutto questo con autorità. Perché? Perché lui vive veramente quello che insegna. Allora, oggi facciamoci togliere anche noi questo spirito impuro, facciamolo tacere, facciamo tacere quelle voci menzognere che tendono ad allontanarci dal cammino giusto, dalla verità, che tendono a rendere il cammino faticoso e impervio e che ci ostacolano appunto nella perseveranza. E facciamo invece il proposito di seguire il Signore e di farci togliere questo spirito impuro. Certo, qui dice: lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Sì, alle volte soffriamo anche tanto per far uscire questo spirito impuro, ma poi c'è veramente la liberazione. Allora perseveriamo in questa lotta contro il male e abbandoniamoci al Signore e diciamo al Signore, Signore, liberami da questo spirito impuro, qualunque sia quello spirito impuro che sta abitando la mia vita. E per concludere, ecco l'aforisma di oggi: lo scoramento è una tentazione, la tentazione di lasciarsi andare, di cedere alla fatica, al pericolo, di arrendersi. Ma vivere significa saper resistere allo scoramento provocato dalle sconfitte. Buona giornata.